seduto il mio bar come ogni sera, e un dolce nero caffè assaporavo. Poi quel ricordo della mia gioventù, di quello sguardo in un volto che non torna più. Caffè nero, ma così amaro, così nero, nero amaro come il destino, quel destino vile e crudele che ha lasciato dentro al mio cuore tanto dolore. Fatto soffrire, con lei avevo giocato a far l'amore, poi la lasciai senza neanche un perché, ma lei mi disse per sempre ti aspetterò. Caffè nero, ma così amaro, così nero, nero amaro come il destino.